fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Le 2:21 del mattino, buonasera, buonanotte, buongiorno, in base a quando ascolterete queste parole e queste voci. Quello che è certo è che è sabato 21 luglio del 2018, io sono Master Nick e questa è sempre Risto Radio Convento e ho il piacere di ospitare insieme a me una ragazza che non festeggia nulla, un'eccezione perché solitamente noi ospitiamo tutti i festeggiati, ma insomma aveva piacere approvare questa esperienza e visitare questo spazio e come non dire di no anche ad una bella ragazza così. Insomma, noi siamo anche, insomma, abbiamo anche dei gusti da mantenere, un tono alto da mantenere, poi soprattutto anche delle belle cose da raccontarci. Benvenuta intanto. Ciao a tutti, io sono Silvia. Oh, benvenuta Silvia, da dove vieni? Da Castegnato, che è in provincia di Brescia, lo diciamo. Esatto. Per gli esterofili e coloro anche semplicemente della mezza Italia che non sanno dov'è. Esatto. Allora Silvia, che cosa fai da noi questa sera? Sono qua a fare un giro con mia sorella perché il convento è il top. Oh, vedi il che bello. Il top del Garda, confermo. Oh, e sottoscrivo. Che bello, e non c'è stato assolutamente né invito né bonifico bancario al suo conto per dire queste parole. Tutto spontaneo che viene dal cuore. No dai, volevo dirti cosa ti piace, ma poi sembra che ce la tiriamo e ci facciamo gli spot e ci facciamo bastare queste tue bellissime parole. Allora Silvia, che so che fai un lavoro come un altro, dicevamo poco fa, che però ti impegna e ti chiede tanta pazienza. Assolutamente, io mi occupo di assistenza ai clienti in una ditta di automazione industriale. Quindi sì, ci vuole tanto pazienza, ma amo il mio lavoro, quindi va bene così. Brava, che significa avere tutte le problematiche di tutto ciò che non va sulle proprie spalle. Esatto. E non solo le problematiche fisiche, ma anche il sostenere, ecco, sopportare il carattere di tutti coloro che giustamente quando una cosa non va te lo fanno capire in maniera abbastanza concitata, ecco, abbastanza calda. Esatto, molto calda direi, però vabbè, insomma, persistiamo, non vogliamo. Esatto. E dove lavorate? Cioè nella provincia di Brescia? A Castegnato proprio. Sì, no, dico i clienti, li servite provinciali, in Italia, ma anche in tutto il mondo. Anche tutto estero. Il mondo, quindi sì, estero. Cioè, hai anche a che fare con clienti stranieri? Assolutamente, okay. Soprattutto in Europa, ma abbiamo anche un cliente negli Stati Uniti, ne abbiamo uno in Turchia, insomma, lavoriamo con... È importante per stare in piedi al giorno d'oggi, se non c'è la parte estera è dura. No, ti facevo questa domanda per capire quanti... però Mary, questo mi va mica bene, cioè sembra una cosa un po' burbera o ci sono anche un po' esatto. Eleganti? No, ma abbiamo anche a che fare con soprattutto Centro Italia, quindi ne sentiamo di tutti i colori. Esatto. E porta Silvia, va niente qui! Dai Silvia, dammi una mano perché non funziona niente! E cacchio Silvia, dai casso Silvia! No, per fortuna a caso non lo usano, però usano molto il pota. È il pota, sì. Vedi che il pota sì. È universale. Esatto. Anche il cliente americano mi diceva Silvia che esordisce sempre con pota Silvia. Esatto, pota Silvia, poi inizia a parlare in inglese. Esatto, però universale, il pota è universale. Esatto. Ma esatto. Poi abbiamo anche un'altra cosa da raccontare, al di là della festa della serata, che è la tua passione sportiva, mi raccontavi poco fa. È la pallacanestro, infatti giocavo fino a 2 anni fa, ho smesso, però continuo. E come mai hai smesso? È troppo impegnativo, giocavo in Serie C, quindi... Ah, però, quindi altissimi livelli, oltre che altissimi centimetri, anche altissimi livelli, Silvia, insomma... 1,80. Bella piazzata, se vi tira uno schiaffo vi fa fare 7-8 giri almeno. No, io non tiro schiaffi. Non tira schiaffi, tiro donna... schiaffi a parole, ma non... No, è dolcissima. Una donna di tutta d'un pezzo, raffinata ed elegante. Però sul campo da calcio, di basket si fa sentire. Abbastanza, sul parquet. Facendo il pivot, insomma. È giusto che il classico prendere posizione. Esattamente. No? Il pivot si mette lì, mette le radici nella lunetta e esatto. Non si schioda più. No, esatto. Però no, mi devo schiodare. Ogni tanto subito anche dei bei pugni in faccia, però vabbè. Ci sta, dai. Purtroppo fa parte del gioco. Per quanto esatto. Hai giocato? Allora, ho iniziato a 14 anni, ho smesso a 23, quindi però perdonami, anni. Molto tardi, anni, molto sì. Tardi. Perché prima giocavo a calcio. Beh, perfetto, guarda, è veramente una donna a cui regalare fiori e rose tutti ma i giorni della propria vita. Abbastanza. No, giocavo a calcio, poi ho smesso perché sinceramente andare in giro a cercare una squadra femminile è tosta. Penso che abbiamo parlato poco fa con una squadra femminile di Parma che festeggiava appunto l'addio al nubilato, e la sposa, la punta, se non ricordo male, aveva invitato proprio tutta la squadra al matrimonio. Era molto molto bello, quindi ci sono davvero poche realtà, ma resistono ancora, per fortuna. Esatto, per fortuna sì. Però vabbè, insomma, il calcio e il basket sono la mia passione. Ma il calcio che ruolo facevi? Terzino mancino. Ah, pensavo il portiere, che già comunque non hai dovuto reinventarti. No, quindi no, passando dai piedi alle mani è stata complicata. Dura all'inizio, è stata dura, però ho imparato, quindi anche bene. Perché ovviamente, essendoci anche un po' di nonnismo, come è giusto che si rispetti, con le nuove arrivate, non sapendo poco e nulla del basket, quando è arrivata le hanno detto: ah, tu facevi calcio, prova a palleggiare questa palla che è buona da palleggiare, e ci ha lasciato un malleolo subito al primo allenamento. No, però tiravo solo da tre punti, non si capisce. Cioè, io la prima volta che ho toccato una palla, però, arrivavo sulla linea dai tre punti, tiravo. È il classico pivot non convenzionale. Esatto, poi pian piano ho imparato. Io avevo uno dei miei giocatori preferiti della nazionale italiana, che era Jack Galanda. Giacomo Galanda, okay. E sapeva fare anche lui solo quello. Lì si metteva fuori, tirava con forsennato, non ne sbagliava una. Senza citare il grande Nowitzki, che è uno dei migliori un nome così. Però insomma è uno dei come dire, dei pivot meno convenzionali che esistano. No, esatto. E poi non hai appeso del tutto le scarpe, no, le scarpone, non le scarpette, perché scarpone, le scarpe da basket direi sono delle pinne praticamente. Le mie confermo, un 44 e mezzo, quindi direi di sì. Ma sono, sto parlando cose interessantissime, ma sono morbide o abbastanza resistenti? Cioè, nel senso, allora, le fanno comode, perché comunque c'era saltare e muoversi parecchio, o comunque, essendo il parquet anche molto fastidioso da sopportare per le giunture, sono belle, belle stagne? No, allora dipende dal tipo di scarpa, perché adesso c'è un modello apposta un pochino più basso che sembra più che altro una scarpa di atletica, però fondamentalmente è comodo per chi comunque ha avuto infortuni alle caviglie, così okay, tiene la caviglia un po' più libera. Io uso sempre quelle un po' più alte, perché non è una questione anche psicologica. Diciamo che la scarpa da basket si riconosce sempre, e è davvero difficile definirla, perché dici, cioè, sembra quasi uno scarponcino da montagna, sì, o comunque vero, molto molto ingombrante e fastidioso a occhio, chiaramente. Però in realtà no, perché io ho usato sempre quelle alte, però no. A parte che adesso vedo in giro gente che va in giro con le scarpe da basket, quindi... Cioè, non è vero, è vero, è anche nata questa moda, quindi. Esatto, però no, sono comode. Cioè, poi ripeto, dipende dal tipo di scarpa, dipende un po' da tutto. Però vabbè, sono comode. E quindi dicevamo che non le ha appese del tutto al chiodo. No. Anche perché non serviva un chiodo, ma fondamentalmente una parete intera per appendere. Ma adesso sei passata dall'altra parte. Esatto, e adesso faccio la vice allenatrice a dei ragazzi di 14 anni. È il primo anno che l'ho fatto, ho finito il primo anno, e adesso pian piano mi sto dando a questa mia nuova passione. Adesso inizierò un corso da allievo allenatore a settembre e vediamo. Ah, quindi comunque hai tutta l'intenzione di andare avanti? Assolutamente, perché vabbè, i miei ragazzi sono bravissimi, cioè non è... Però insomma, incentivarli allo sport, cercare di non lasciarli andare nel mondo che adesso purtroppo accomuna molti ragazzi giovani. Certo. Noi stiamo cercando, il nostro obiettivo è quello di cercare di tenerli lontano da questo mondo, e ci stiamo riuscendo, perché hanno una passione, cioè, allucinante per la pallacanestro. Sono al campetto dalla mattina alla sera. Bene, bene, questo è importante. Molto. Poi si trovano soddisfazioni da un'altra parte, nel senso che prima le trovi sul campo, esatto, mentre ora le trovi in un altro modo. E parlando velocemente, cosa anche qui che mi sono sempre chiesto, dal punto di vista dell'allenamento proprio, percentualmente quanto c'è di tattica, tra virgolette, e quanto c'è invece di fisica, cioè di atletica? O... Ma intendi in un allenamento mio? In generale, allora, nella preparazione di una partita, comunque di una stagione. Allora, intanto, quant'è la media settimanale? Due, tre? Allora, io quando mi allenavo ne facevo due. Il terzo era facoltativo, però okay, si cercava di farlo più la partita. Ok. Allora, all'inizio dell'anno naturalmente si è più improntati sull'atletica, perché naturalmente venendo dall'estate devi cercare di... Certo. Però dopo pian piano. Breve o lungo? Breve. Breve, nel senso un'oretta e mezza di... No, no, nel senso si preparava sul breve, immagino. Sì, no. Cioè allora, non il fondo, non fondo. No. Allora, forse i primi 3-4 allenamenti sì sul fondo, poi iniziavamo sugli scatti, esatto, perché noi siamo tutti di scatti, esatto, praticamente. Esatto. Però anche il fondo aiuta, perché di fare continuamente avanti e indietro, quindi... Serve comunque polmone. Esatto, quindi il primo mese mindset molto atletica, poi dopo no, tattica, gioco, schemi, vabbè. Comunque una parte dell'allenamento veniva comunque dedicata alla corsa, okay, perché comunque la devi tenere, certo, però la maggior parte era improntata sulla tattica e sul gioco, quindi sì, questo sì. E tra l'altro cos'è, una dozzina di persone di solito la squadra di basket, 13, no? Allora, noi in panchina siamo in 10. Ah, però. In 10, però a un, sì, a un allenamento solitamente cercavamo di essere almeno in 15. Tanto per, in modo tale da avere dei cambi per poter, sì, no, per fare difesa attacco, esatto, insomma, quelle solite cose. Ci è capitato anche di essere in 20. Però sì, quindi ci si divideva su due campi, certo, poi ci si allenava ognuno col suo ruolo, noi pivot facevamo determinati esercizi, perché certo, naturalmente ogni ruolo ha la sua. Bene, bene, bene, sì, molto, sì, interessante, sì. E ora l'ultima nota un po' di colore che volevo chiedere, altre qui cose interessantissime: perché si usa sempre la canotta smanicata e senza nulla sotto? Almeno guardando gli, sì, professionisti, cioè, allora, correndo, muovendosi, arrivo, correndo, muovendosi, è normale che, insomma, si sudi molto, però è uno degli unici sport in cui non si asciuga, insomma. Allora, io le uso, le uso anche tuttora quando mi alleno in palestra, quelle smanicate, perché sono molto comode, no, cioè, senza nulla sotto. No, no. Con la maglia. No, no, nulla inteso, la no, maglietta. Solo, no, no, io uso la smanicata sotto il top e basta. Ah, appunto. E quindi, no, perché almeno noi siamo comode così, perché col tiro, poi vabbè, dipende anche, dipende da tipologia di persona, secondo me. Perché no, trovi, però mi viene in mente adesso, cioè, nel senso, per farti capire l'assurdo dell'immagine che è in testa, LeBron James, che ha tutta la fascia nera, che parte dal bicipite fondamentalmente fino all'avambraccio, e immagino sia sul braccio di tiro, no scusa, sul braccio d'appoggio, quindi per non far sudare il braccio e quindi la mano, sì, a sto punto mettiti la maglia. Cioè, ti, beh, metti, sì, la maglia sotto e sei anche Iverson mi pare che facesse. Allora, io ho a questi specie di chiamiamoli polsini, ma non, sì, lo sono, cioè queste fasce che ti coprono il braccio, ci credo relativamente, però c'è, cioè, molta gente li usa, ma anche le gambe. C'è anche molta immagine, sì, anche molta, un po', sì, di tendenza, sì, quelle cose lì. Ma la usano anche quelle che sulle gambe adesso. No, però vedi, gambe, vedi, non, una sorta di pantacollant. Non si finisce mai di imparare. No, esatto. Non però si finisce mai di imparare. Allora, io ti auguro in bocca al lupo per questa tua nuova, credi, bella, grazie, esperienza. E speriamo davvero che ti porti tutta la gioia, la soddisfazione e i risultati che sono, speri, sicura, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. E intanto salutiamo anche la sorella che sarà da qualche parte in pista. Esatto. Ti facciamo tornare a ballare e a divertirti. Esatto. Buona serata. Grazie, ciao, mille, ciao.